Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Inizia una nuova stagione anche con il mondo della scuola, anche nell'orario mattutino del giovedì mattina nella nuova collocazione, oltre che in quelli tradizionali del mercoledì pomeriggio e del sabato intorno all'ora di pranzo. Iniziamo dunque questo percorso, la scuola ha già ripreso le attività ormai da 20 giorni e più e come sempre, come da buona tradizione, iniziamo e chiudiamo l'anno con il responsabile dell'ufficio scuola educativa Università della Conferenza Episcopale Triveneta, Don Edmondo Lanciarotta, bentornato. Grazie a voi e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Allora, iniziato quest'anno scolastico con tanti spunti, prendo quello delle scuole paritarie perché è stato più recente, ci sono stati anche interventi, prese di posizione, difficoltà, ma non solo questo, magari partiamo da questo e poi tocchiamo altri aspetti. Allora, certo che l'inizio dell'anno diventa sempre un'occasione affinché la scuola si ripensi e si riproponga, ecco, di fronte all'opinione pubblica, ma specialmente alla società, per rispondere anche alle grandi emergenze educative. Ecco, quando c'è una questione educativa, c'è una questione sociale, c'è una questione economica, ecco, sempre la scuola che dovrebbe fare qualcosa. Quindi, per quanto attiene, diciamo, la parità, noi siamo ancora purtroppo fermi al palo e possiamo dire anche per certi aspetti anche in grande difficoltà, perché ancora non si riesce a scardinare questo principio della libertà di scelta da parte dei genitori, del diritto dello studente di apprendere e poi in un pluralismo scolastico dentro un sistema di cui c'è già la normativa italiana, con la legge della parità 62, purtroppo manca l'adeguamento finanziario economico. Questo ancora non solamente penalizza il sistema, ma penalizza le famiglie e compromette il tutto il sistema, specialmente anche nel nostro nord e nel Veneto, e con il basato sul principio della sussidiarietà e poi sul principio della scuola dell'autonomia. Purtroppo questi due grandi principi, autonomia e sussidiarietà, stanno sempre di più si stanno compromettendo proprio per una miopia politica. Nonostante qui da anni noi continuiamo a usare le terminologie giuste, i concetti giusti, sì, ancora a livello così culturale, quando si leggono titoli sui giornali, quando si sente dibattere del tema, ancora si utilizza impropriamente l'espressione scuole private. Ecco, ancora questo denota la mancanza culturale, la incapacità anche politica di affrontare in maniera degna e con un linguaggio appropriato la questione, ma in maniera particolare la società non è preparata ad affrontare queste questioni e quindi abbiamo tutti una grande responsabilità. Poi, se lo vediamo anche dal punto di vista delle nostre comunità cristiane, abbiamo un'ulteriore responsabilità, perché di fronte a questa bassa cultura rischiamo di perdere questi principi che prima io indicavo, che sono poi concentrati in maniera particolare nelle scuole paritarie, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole della comunità. Le scuole, appunto, che sono o dovrebbero essere sostenute anche dalla comunità, molte parrocchie in questi tempi si sono anche interrogate per forza di cose sulla volontà comune di sostenere, di volere queste scuole. Ecco, il rischio è che si veda questa realtà solamente dal punto di vista economico. Certo, è gravissimo questo, ci mancherebbe, ma noi dobbiamo vedere dal punto di vista globale. Allora, come sono nate queste scuole? In una situazione in cui l'economia era peggiore dell'attuale e le comunità cristiane non avevano primariamente la questione economica, avevano l'urgenza di dare una risposta alle questioni educative e hanno fatto delle scelte in cui anche l'economia poi ha condizionato per costruire queste scuole. Noi oggi dobbiamo recuperare questa profezia, dobbiamo recuperare questa primaria originaria idea, e cioè oggi di fronte alla crisi sotto ogni punto di vista, e anche il Cardinale Bagnasco all'introduzione del Consiglio permanente della CEI ha evidenziato questo, e io mi domando, la scuola e l'educazione, io faccio questa affermazione motivata, la scuola e l'educazione contribuiscono a risolvere la crisi. E allora a questo punto dobbiamo creare le condizioni perché la scuola sia messa nelle condizioni per svolgere realmente il proprio ruolo, e non possiamo assolutamente smantellare tutto quel sistema capillare dell'educazione che sono appunto le nostre scuole dell'infanzia, che sono appunto nate dentro la comunità cristiana ed esprimono in maniera particolare la vita delle comunità cristiane. Quindi la vita delle comunità cristiane non può non farsi carico delle scuole. Poi il problema è soprattutto per tutta la scuola, cioè la scuola pubblica nel suo complesso, anche quella gestita dallo Stato, dove sappiamo, so di casi di persone, di genitori che sono stati invitati proprio esplicitamente a portare loro la carta igienica perché anche lo Stato è in difficoltà finanziaria. Appunto, allora, se questo dobbiamo fare un discorso generale, quindi noi siamo partiti dal particolare per andare al generale, possiamo partire dal generale per andare al particolare, siamo partiti dal particolare, la paritaria, per andare al generale. La parità fa parte di tutto il sistema, quindi c'è tutto il sistema scuola educazione che patisce. In questi ultimi anni io ho documenti alla base che dal 1992, ecco, il governo italiano è quello che ha dato sempre di meno forze, energie, contributi dal punto di vista economico e finanziario alla scuola. Quindi c'è stato un gioco al ribasso, mentre negli altri stati c'è una tendenza diversa. Quindi si capisce che di fronte alla crisi occorre investire in scuola e in formazione. Noi in Italia invece tagliamo costantemente, e quando si taglia in maniera indiscriminata, e questo fa patisce. Su questo taglio poi resta il problema della parità, ecco che allora poi c'è la lotta tra i poveri. Allora, come mai poi qualche volta si vengono recuperati dei contributi tagliati precedentemente ai paritari? Ecco, allora vengono scambiati come soldi, favoritismi dati alle paritarie e non dati alla statale. E questo veramente ancora purtroppo fa parte della nostra miopia politica, oltre che culturale. Noi continueremo da questi microfoni a tenere desto il dibattito, evidentemente. Siamo alla prima pausa e tra poco ti chiederò un commento sulle recentissime parole del ministro Profumo a proposito dell'insegnamento della religione in classe. A tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Scusa, ma ti chiamo amore, non so dire nulla più. Scusa se ti ho dato un nome, dico solo che sei tu. Ridisegni il mio destino e colori il desiderio dentro gli occhi miei. Io non ho più freddo adesso che ho imparato a piangere, e non ho paura quando sento di rinascere. Mi rimetto in gioco adesso, lascio correre il mio cuore verso di te. Non è troppo tardi in tasca, ora ho la libertà, puoi tirarla fuori quando vuoi. Una avere gli anni che hai ora tu, ma conservo quell'istinto per volare come un aquilone in libertà. L'amore non è convenzione, non si delimita, scorre nei nostri cuori ormai. Una se ti ho dato un nome, ora puoi chiamarmi anche tu. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Di nuovo insieme con la prima puntata stagionale dal mondo della scuola, il nostro appuntamento settimanale che ci porta certo all'interno delle scuole paritarie, ma nel quale si dibatte anche un po' di tutta la scuola nel suo complesso, la scuola pubblica. In questi giorni ha suscitato dibattito, anche polemica, una dichiarazione del ministro per l'istruzione Francesco Profumo a proposito dell'insegnamento della religione cattolica. Ha detto, è un dato di fatto, che le nostre scuole sono cambiate, ci sono molti alunni di provenienza straniera e questo è un dato di fatto ed è una ricchezza con dei risvolti anche problematici in tutte le scuole. E a proposito di quello che ha detto sul fatto che andrebbe rivisto l'insegnamento della religione cattolica, Don Edmondo. È una questione molto delicata, complessa e non va discussa così per spot pubblicitari o per affermazioni estrapolate dal contesto. Allora, questa è una normativa che è pattuita, è pattizio tra il Vaticano e la Conferenza Episcopale, e poi la Conferenza Episcopale attraverso l'intesa con il MIUR. Quindi ha tutta una regolamentazione tutta particolare. Secondo dato, è nella scuola italiana. Bene, tutti gli studenti della scuola italiana fanno parte della scuola italiana, quindi si devono adeguare alla legislazione italiana. Quindi se questa è la legislazione italiana, si devono adeguare a questo regolamento, che ci piaccia o non ci piaccia. Bisogna affrontare la questione religiosa e l'insegnamento della religione in termini culturali. Purtroppo noi abbiamo tante remore. Ancora, quelli molti che si iscrivono e molti che non si iscrivono, o meglio, molti che si avvalgono e molti che non si avvalgono, la motivazione è perché io credo a una parte, io non credo nell'altra. È una motivazione così che accogliamo, ma che non è specifica. Perché il taglio dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è un taglio prettamente culturale. Non è catechismo. Non è catechismo, non è confessionale. È un recupero che la religione cattolica fa parte del patrimonio culturale, artistico e storico dell'Italia. E questo deve essere conosciuto per poterlo vivere, per poterlo poi tramandare. Quindi si tratta di dare i principi fondamentali del conoscere. Ecco, poi possiamo anche conoscere le altre religioni, ma questa, la religione, l'insegnamento della religione cattolica in Italia è sempre un insegnamento che è, oltre che con il contenuto specifico del patrimonio che abbiamo detto prima, è sempre interdisciplinare ed è sempre interreligioso. Quindi anche queste affermazioni rischiano di creare più confusione che non invece di chiarire. Dette anche poi da un ministro, questo ci rende un po' perplessi, perché effettivamente non aiuta il discernimento. Ecco, per quanto un esempio, come è possibile studiare la Divina Commedia senza conoscere i dati fondamentali della comunità, che sono appunto tratti dalla religione cattolica? Ecco. La storia dell'arte, ecco, ma faccio questo della Divina Commedia perché qualche tempo fa c'era qualcuno che voleva eliminare l'insegnamento della Divina Commedia come materia perché è troppo specifica. Nessuno è intervenuto, pochissimi. Chi è intervenuto? È intervenuto Benigni, il quale, presentando con la sua capacità, la sua arte, ecco, e alcuni canti dell'inferno, alcuni canti paradiso, ha veramente rasserenato gli spiriti e ha fatto capire l'importanza di questo grande patrimonio che rischiava di essere subissato per una miopia culturale. Adesso nessuno parla più di eliminare la Divina Commedia e si tratta appunto di conoscere attraverso i dati prettamente religiosi. Quindi bisogna reimpostare questo, e il rischio è che se noi facciamo anche la storia delle religioni, possiamo fare la storia delle religioni, ma cosa vuol dire fare storia della religione? Dimenticando il dato fondamentale della cultura italiana. La cultura italiana è pregna del dato della religione cattolica. Quasi, e i ragazzi di molte nazionalità, e noi nel Veneto e a Treviso, Vicenza, abbiamo le statistiche presentano il numero delle nazionalità molto più numeroso che non in altre parti d'Italia. Questo diventa un grande arricchimento, è una offerta culturale di grande arricchimento. Resta il problema che molte scuole cosa fanno? Poiché vengono ragazzi di varie nazionalità e anche di varie regioni, vengono orientati a non avvalersi della religione cattolica. Perché? Perché loro non sono cristiani perché loro non sono, e questo è un grave danno che si fa a questi ragazzi, perché si impedisce a costoro di affrontare un'occasione, uno studio di conoscenza della religione, come studiano la lingua, come studiano la letteratura, per poter inserirsi nel nostro ambiente, viene loro privato un diritto, e questo è un grave danno. Torneremo a parlare, evidentemente, visto che adesso questo dibattito si è riacceso. Conferenza Episcopale Triveneta con alcuni cambiamenti, in primis 6 mesi fa la guida, il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, iniziative legate alla scuola promosse dalla CET. Ecco, ci sono due in particolare. La prima riguarda la commissione della scuola, che prevede come ogni anno un momento di riflessione, e lo faremo il 21 di ottobre a Zellarino. Le consulte di tutte le diocesi del Triveneto, in 3 momenti: il primo momento liturgico, il secondo momento culturale, cercheremo di affrontare i cambiamenti della scuola per poterla abitare, quindi abitare nella scuola che cambia. Saremo introdotti da 2 interventi: il primo intervento del sociologo Luca Diotallevi, che presenterà i cambiamenti più significativi, e secondo il direttore dell'UNESU, della CEI, Maurizio Viviani, che presenterà appunto i criteri per poter abitare in questa scuola che cambia, per offrire dei contributi all'impegno dei fedeli cristiani laici nella scuola, in tutta la scuola. Nel pomeriggio delle indicazioni operative, pratiche e pastorali, lo scambio delle esperienze e il confronto su alcuni punti su cui invitare le comunità cristiane che hanno vissuto anche Aquileia, Aquileia 2, dove l'impegno educativo è stato ribadito. Allora, in attesa anche della lettera dei vescovi, i nostri vescovi, sul dopo Aquileia, cercheremo appunto di dare delle indicazioni che possono valere a livello del Triveneto sull'impegno educativo attraverso anche il mondo della scuola. Questo è un punto. Il 21 ottobre. Il 21 di ottobre, questo qui. E un secondo è il Comitato per la Parità, ecco, in dialogo anche con l'iniziativa che è partita da noi, da Catron, lo scorso anno, in novembre dello scorso anno, ha smosso anche l'opinione pubblica nelle altre, specialmente le altre conferenze episcopali del Nord Italia. Ci sono stati fatti degli incontri di sensibilizzazione e cercheremo appunto di portare avanti, come si diceva prima, la lotta per la parità, ecco, presentando la specificità del Veneto e specialmente la specificità del Nord Italia, in maniera tale che, ecco, non ci sia una conflittualità tra le regioni, ma ci sia una partecipazione di maggiore responsabilità della specificità del nord, in maniera tale che si arrivi poi anche a una attenzione particolare. Per esempio, la proposta che noi facciamo è quello di dire: quanto è che costa un ragazzo allo Stato? Bene, quanto è che viene risparmiato con questo sistema? Noi garantiamo il risparmio economico, garantiamo anche una qualità della scuola, garantiamo la sussidiarietà, creiamo le condizioni perché la politica possa fare anche queste scelte, e quindi un impegno di sensibilizzazione, ma anche di azione. Vedremo se fare anche una manifestazione pubblica per poter continuare questa lotta. C'è chi tira la cinghia e fa i conti, c'è chi sperpera dall'altra parte, ma questo è cronaca di queste ore e di questi giorni. Ultima pausa e poi ancora insieme con il mondo della scuola. Dal mondo della scuola. Ultima parte di questa prima puntata stagionale dal mondo della scuola qui su Blu Radio Veneto con Don Edmondo Lanciarotta, responsabile per la Conferenza Episcopale Triveneta dell'Ufficio Scuola, Educazione e Università. L'inizio dell'anno porta con sé anche una programmazione, evidentemente, che è partita qualche tempo fa. Partirei dal coordinamento interdiocesano. Cosa c'è in programma? Ecco, il coordinamento interdiocesano delle scuole cattoliche Treviso Vittorio Veneto propone un percorso di formazione per e con i docenti. E abbiamo appunto fra due giorni, venerdì 28 di settembre, al Collegio Pio X di Treviso, dalle 15 alle 18, un seminario che apre un biennio di lavoro, di impegno, di formazione. Sulla carta programmatica che le scuole hanno rielaborato, ripensato, e un capitolo di questo è si parla della didattica personalizzata. Quindi cercheremo di affrontare l'argomento, di introdurci a questo momento, l'abbiamo titolato verso un curriculum centrato sul significato, cioè la personalizzazione come modello pedagogico. E qui recuperiamo il percorso che abbiamo fatto gli anni scorsi sull'impegno di riscoprire l'essere umano non più come individuo, ma l'essere umano come persona, che è appunto basato sull'antropologia cristiana. E ma cosa vuol dire adesso fare una scuola basata sulla persona? Ecco, un curriculum e una didattica personalizzata. Questo lo faremo il venerdì 28 al Collegio Pio X. Ci sarà appunto coloro che interverranno, ci aiuteranno ad entrare in questo percorso. Ovviamente chi ci ascolta di sabato lo avrà già perso, ma entriamo invece nello specifico trevigiano, visto che tu sei anche della diocesi di Treviso. Cosa c'è in programma nell'anno? Ci sono diverse iniziative con le associazioni, l'AIMIC, l'UCIM, l'AGE, ecco, propongono diverse iniziative che avremo modo anche di presentare cammin facendo in questi mesi. Ne propongo una a livello unitario che coinvolge anche la diocesi di Vittorio Veneto, ecco, per tutta quanta la scuola, la proposta di un concorso a premi. L'abbiamo intitolato Sofia guarda la crisi. E due parole, cioè l'idea è questa, che l'educazione e quindi anche la scuola concorre alla risoluzione di questa crisi, anche crisi culturale, anche crisi economica, anche crisi finanziaria. E la proposta è questa, di fare delle fotografie o unitarie o copie di fotografie che cercano di catturare situazioni che fanno pensare, che evidenziano le contraddizioni della società di oggi che vive appunto la crisi, una crisi dei valori, una crisi economica, una crisi sociale, una crisi delle relazioni. Ecco, fotografare questo con una didascalia, una motivazione sotto, faremo poi, e questo entro il mese di dicembre, quindi tutti sono invitati, studenti di ogni ordine e grado, docenti di ogni ordine e grado, scuole di ogni ordine e grado, a partecipare a questo concorso a premi. Una giuria particolare valuterà. Ci sarà una mostra che faremo nei primi mesi dell'anno 2013 nel chiostro di San Francesco, ci sarà un dibattito aperto, le migliori fotografie premiate, anche quelle che desiderano essere esposte le pubblicheremo anche nel sito, e tenteremo appunto attraverso questa modalità di fotografia di porre anche dei momenti di riflessione di discussione appunto su come poter contribuire alla risoluzione di questa crisi che dentro la quale ci siamo, e noi dobbiamo essere capaci, cioè avere la sofia, la capacità di interpretazione, la capacità di valutazione altra, che non sia solamente quella puramente scientifica, ma quella sapienziale, per poter dare senso e significato al vivere quotidiano. Appunto, è la sofia greca, non è? Esattamente. E quella, e poi speriamo anche che ci sia anche la sofia cristiana, certo, e la sapienza cristiana, che dalla quale noi possiamo solamente trarre il senso del nostro vivere quotidiano. Ecco, la scuola, abbiamo un paio di minuti prima di chiudere. La scuola, tu che lavori anche come docente nella scuola pubblica, sì, come sta? Cioè, dovendo dare un po' da medico una valutazione alla scuola, alla febbre, come non sta? Perché ci sono ancora dentro, sì, ma la scuola, nonostante tutto, è l'istituzione, per esempio, che è migliore, l'istituzione che nei confronti, per esempio, anche degli stranieri, accoglie gli stranieri. La scuola, nonostante tutte, va avanti con la passione di tante persone. La scuola, nonostante tutto, è quell'istituzione, quel tempo che si dà al ragazzo e ci si mette in gioco. Quindi, ecco, purtroppo troviamo tante tante persone che sono stanche, tante tante persone che sono anche svogliate, tante tante persone, ma queste le troviamo ovunque. Noi possiamo dire che la scuola, nonostante tutto, è ancora un luogo di formazione, è ancora un luogo di educazione. Per i tuoi colleghi universitari è sì, un periodo per molti credo anche di fermento, visto il maxi concorso, sistemazioni, lì, eccetera. Anche lì c'è poca attenzione perché abbiamo tanti precari e quindi bastava inserirli questi, non occorre fare altri concorsi. Certo, altri concorsi, perché purtroppo sono 12 anni che non ci sono più concorsi, però con criteri, questi qui, ecco, che rispettino anche la professionalità, che rispettino. Quindi avrei avuto piacere che ci fossero state anche due modalità: una modalità per quelli che sono già inseriti, per quelli che già operano, per quelli che già hanno una lunga esperienza, eccetera, e una modalità nuova per i nuovi, che effettivamente dovrebbero essere maggiormente anche accompagnati, specialmente per quanto attiene la didattica. Torneremo a parlare di studenti e di docenti lungo questo percorso fino a giugno. Ogni settimana a quest'ora ci ritroveremo. Grazie Don Edmondo, alla prossima. Grazie a Mirko, a te e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.